ad alta voce. Chiara Guidi legge Memorie del sottosuolo di Fyodor Dostoevskij. Traduzione di Alfredo Polledro. 19ª puntata. Mentre tornavo da Lisa, mi venne in mente per via se non avevo da fuggire così com'ero, nella mia vestarella da camera, dove m'avrebbero portato le gambe e poi succedesse pure qualunque cosa. Mi sedetti di nuovo. Lei mi guardava con inquietudine. Per alcuni minuti restammo zitti. «Lo ucciderò!» gridai a un tratto, battendo con forza il pugno sulla tavola, tanto che l'inchiostro spruzzò via dal calamaio. «Che fate?» gridò lei sussultando. «Lo ucciderò! Lo ucciderò!» strillavo io, battendo il pugno sulla tavola in una vera frenesia e comprendendo benissimo nello stesso tempo come fosse sciocco essere in un tale stato di frenesia. «Tu non sai, Lisa, che cos'è questo boia per me. È il mio boia. Ora è andato a prendere i biscotti e a un tratto io scoppiai in lacrime. Era un attacco. Come mi vergognavo fra i singulti, ma io non li potevo più trattenere. Lei si spaventò. «Che avete? Che avete mai?» esclamava affacciandosi intorno a me. «Dell'acqua. Dammi dell'acqua, laggiù», mormoravo con voce debole, riconoscendo fra me del resto che avrei potuto benissimo fare a meno dell'acqua e non mormorare con voce debole. Ma io, come usa dire, recitavo una parte per salvare le convenienze, sebbene l'attacco fosse reale. Lei mi diede dell'acqua, guardandomi smarrita. In quel momento Apollon portò dentro il tè. Mi parve tutto a un tratto che questo comune e prosaico tè fosse straordinariamente indecoroso e misero dopo tutto ciò che era accaduto, e arrossii. Lisa guardava. Guardava Apollon con spavento. Lui uscì senza guardarci. «Lisa, mi disprezzi?» dissi, guardandola fissamente, tremando dall'impazienza di sapere che cosa pensasse. Lei si confuse e non seppe rispondere nulla. «Bevi il tè!» Ero stizzito contro me stesso, ma si intende che doveva farne le spese lei. Un tremendo rancore ribollì tutto a un tratto nel mio cuore contro di lei. Credo che l'avrei uccisa. Addirittura per vendicarmi di lei. Giurai mentalmente di non dirle nemmeno una parola in tutto il tempo. «È lei la causa di tutto?» pensavo. Il nostro silenzio si era già protratto forse 5 minuti. Il tè era sulla tavola, non lo toccavamo. Io giunsi al punto che non volevo cominciare a bere apposta per gravare così ancora maggiormente la mano su di lei, e quanto a lei le era difficile cominciare. Più volte ella mi guardò con triste perplessità. Io tacevo. Tacevo ostinatamente. Il martire principale, naturalmente, ero io, perché avevo piena coscienza di tutta la disgustosa bassezza della mia maligna stupidità e nello stesso tempo non potevo assolutamente trattenermi. Di là, io voglio Voglio andarmene in tutto. Cominciò lei per interrompere in qualche modo il silenzio. Ma poveretta. Precisamente di questo non bisognava cominciare a parlare in un momento già così sciocco, a un uomo già così sciocco come me. Perfino il mio cuore si strinse di compassione per la sua inabilità e la sua inutile dirittura. Ma qualcosa di informe soffocò subito in me tutta la compassione. Anzi, mi eccitò ancora di più. Vada alla malora tutto quel che c'è al mondo. Passarono ancora 5 minuti. Non vi ho disturbato. Cominciò lei timidamente in modo appena udibile e fece l'atto di alzarsi. Ma io, non appena vidi questa prima vampata di dignità offesa, mi misi addirittura a tremare dalla rabbia e subito proruppi. A che scopo sei venuta da me, dimmi per favore? Cominciai ansando e perfino senza attenermi a un ordine logico nelle mie parole. Avevo voglia di dir tutto di colpo, d'un fiato. Non mi curai nemmeno da che cosa dovessi cominciare. Perché sei venuta? Rispondi, rispondi, gridai trattenendomi a stento. Te lo dirò, madre mia, perché sei venuta. Sei venuta perché allora ti ho detto delle parole pietose. Beh, e tu ti sei intenerita e ti è venuto di nuovo voglia di parole pietose. Sappi dunque, sappi che allora ridevo di te. Ne rido ancora. Ne rido anche ora. Perché tremi? Sì, sì, ridevo di te. Prima a pranzo mi avevano offeso quelli lì che allora erano venuti prima di me. Ero venuto da voi per coprire di botte uno di quelli, l'ufficiale, ma non mi riuscì, non lo trovai. Bisognava pure scaricare l'offesa su qualcuno, rifarsi. E sei capitata tu. E su di te ho rovesciato il guaio. E mi sono burlato di te. Mi avevano umiliato e anch'io volevo umiliare. Mi avevano trattato come uno straccio. E anch'io volevo mostrare il mio potere. Ecco, ecco, ecco quello che è accaduto. Mentre tu pensavi già che allora fossi venuto apposta per salvarti, no? Non lo pensavi? Non lo pensavi? Io sapevo che forse lei si sarebbe imbrogliata e non avrebbe capito i particolari. Ma sapevo anche che avrebbe capito benissimo la sostanza. E così accadde. Ella impallidì come un cencio. Voleva dire qualche cosa. Le sue labbra si storsero in una smorfia dolorosa, ma cadde sulla sedia come recisa con un'accetta. E per tutto il tempo poi mi ascoltò con la bocca spalancata, con gli occhi aperti e tremando di un terribile spavento. Il cinismo. Il cinismo delle mie parole l'aveva schiacciata. Salvare. Continuai io, balzando dalla sedia e correndo avanti e indietro per la stanza dinanzi a lei. Da che cosa salvare? Ma io forse sono peggio di te. Perché non mi tirasti qualcosa sul muso quando ti facevo la predica? E tu? Perché sei venuto da noi a far la morale? Allora avevo bisogno di potere, di potere. Avevo bisogno di divertimento. Avevo bisogno di ottenere le tue lacrime, l'umiliazione, l'attacco isterico. Ecco di che cosa avevo bisogno allora. Anch'io. Anch'io allora non ressi, perché sono un essere sozzo. Mi spaventai. E lo sa il diavolo perché ti diedi per stupidaggine il mio indirizzo. Sicché poi, ancora prima di arrivare a casa, ti ricoprivo già di ingiurie per questo indirizzo. Ti odiavo già. Ti odiavo perché allora ti avevo detto il falso. Perché a parole mi diverto. Con la fantasia vado sognando. Ma in realtà ho bisogno. Sai di che cosa? Io ho bisogno che sprofondiate. Ecco di che cosa. Ho bisogno di tranquillità. E perché mi lasciassero tranquillo, venderei subito tutto il mondo per una copeca. Ad sprofondare il mondo. O io... ho da non bere il tè. Io direi che avesse da sprofondare il mondo e che io avessi sempre da bere il tè. Lo sapevi tu questo? No? Beh, io so di essere un farabutto, un mascalzone, un egoista, un fannullone. Ho tremato in questi 3 giorni per la paura che tu venissi. E sai che cosa mi rendeva particolarmente inquieto in tutti questi 3 giorni? No? Che allora avevo fatto tanto l'eroe davanti a te che qui tutta un tratto mi avresti veduto in questa vestarella da camera strappata, misero schifoso. Ti ho detto poco fa che non mi vergogno della mia povertà. Sappi, invece, che me ne vergogno. Me ne vergogno. Me ne vergogno più di ogni altra cosa. La temo più di ogni altra cosa, più che se rubassi, perché sono vanitoso. Come se mi avessero levato via la pelle e sentissi dolore anche al solo contatto dell'aria. Ma possibile che tu neanche adesso abbia ancora indovinato che non ti perdonerò mai di avermi sorpreso in questa vestarella da camera mentre mi gettavo su Apollon come un cagnolino rabbioso? Proprio il Redentore, proprio l'ex eroe si getta sul suo domestico come un rognoso ispido botolo. Botolo! E quello lì, e quello ride di lui! Anche le lacrime di poco fa che io, come una donnetta confusa, non ho potuto trattenere davanti a te. Non te lo perdonerò mai. E quello che ora ti confesso, lo stesso a te, non lo perdonerò mai, sì. Sì, sì, tu solo. Tu sola. Tu sola devi rispondere di tutto questo perché mi sei venuta a tiro così. Perché io sono un farabutto. Perché sono il più schifoso, il più ridicolo, il più meschino, il più sciocco, il più invidioso di tutti i vermiciattoli della terra. Che non sono affatto migliore di me. Ma lo sai il diavolo perché? Non si confondono mai. Invece io così riceverò per tutta la vita dei buffetti da qualsiasi lendine. E questa è la mia caratteristica. E che me ne importa? E che me ne importa che tu non ne capisca nulla? Che me ne importa? Beh, che me ne importa di te? E che là tu ti rovini o no? Ma lo capisci? Come ti odierò? Come ti odierò ora dopo averti detto questo? Perché sei stata qui e mi hai ascoltato. Perché l'uomo una sola volta nella vita dice tutto così. E anche allora, in un attacco isterico. Lisa, che ti occorre ancora? Hm? Perché dopo tutte queste cose mi stai ancora davanti? Hm? Perché mi tormenti? Perché non vai via? Lisa! Ma allora accade a un tratto uno strano caso. Sono tanto abituato a pensare e immaginare tutto secondo i libri e a figurarmi tutto quel che c'è al mondo, come me l'ero creato fin da prima nei miei sogni, che allora non capii subito questa strana circostanza. Ed ecco che cosa era accaduto. Lisa, da me oltraggiata e calpestata, aveva capito assai più. Assai più che io non mi immaginassi. In tutto questo aveva capito ciò che una donna capisce sempre prima di ogni altra cosa, se ama sinceramente, e cioè che io ero infelice. Il senso di spavento e di offesa si era mutato dapprima sul suo volto in un amaro stupore. Quando poi io cominciai a chiamarmi mascalzone farabutto, e sgorgarono le mie lacrime. E tutta questa tirata la pronunciai fra le lacrime. Tutto il suo viso fu alterato da una specie di convulso. Voleva alzarsi, fermarmi, e quando finì non rivolse la sua attenzione alle mie grida di «Perché sei qui? Perché non vai via?» ma al fatto che per me doveva essere molto penoso dire tutte quelle cose. Poi era così umiliata, poverina. Considerava d'essere infinitamente più in basso di me, come avrebbe potuto stizzirsi, offendersi. A un tratto balzò dalla sedia in un irrefrenabile impulso e, tendendosi tutta verso di me, ma ancora sempre timorosa e senza osare muoversi, mi tese le braccia. Thank you. qui, si sconvolse anche il mio cuore. Allora lei si gettò di improvviso verso di me. Mi circondò il collo, con le braccia, e si mise a piangere. Anch'io non ressi più e presi a singhiozzare come non mi era ancora mai accaduto. Lisa, non mi permettono. Non posso essere buono. Proferì a stento, dopodiché arrivai fino al divano, vi caddi sopra a bocconi e per un quarto d'ora singhiozzai in un vero attacco isterico. Lei si strinse a me, mi abbracciò e parve venir meno in questo abbraccio. Ma tuttavia l'essenziale era che l'attacco isterico doveva pur passare. Ed ecco che, del resto, scrivo la ripugnante verità, mentre ero saldamente disteso bocconi sul divano e col viso affondato nel mio brutto cuscino di cuoio, cominciai a sentire a poco, da lontano, involontariamente, ma irresistibilmente, che ora sarei stato imbarazzato a sollevare il capo e guardare Lisa dritto negli occhi. Che cosa mi vergognavo? Non lo so. Mi vergognavo. Mi venne anche nella mia testa sconvolta l'idea che le parti ormai si erano definitivamente invertite, che l'eroina adesso era lei e io una creatura altrettanto umiliata e calpestata come era lei di fronte a me in quella notte 4 giorni addietro. E tutto ciò era entrato in me fin dai momenti in cui stavo disteso bocconi sul divano. Ma possibile che allora la invidiassi? Non lo so. Ancora adesso non posso stabilirlo. E allora certamente potevo capirlo, ancora meno di adesso. Perché senza esercitare un potere e una tirannia su qualcuno, io non posso vivere. Ma del resto coi ragionamenti non si spiega nulla. E per conseguenza è inutile ragionare. Non di meno mi vinsi e sollevai il capo. Bisognava pur tirarlo su un momento o l'altro, ed ecco, son convinto ancora adesso che, appunto perché mi vergognavo a guardarla, allora nel mio cuore a un tratto si accese e avvampò un altro sentimento, un sentimento di dominazione e di possesso. I miei occhi brillarono di passione e le serrai forte le mani, come la odiavo. E come ero attratto verso di lei in quel momento, un sentimento rinforzava l'altro. Sembrava quasi una vendetta. Sul suo volto si dipinse dapprima come un senso di stupore, come un senso perfino di paura, ma solo per un attimo. Ed ella mi abbracciò con rapimento e con ardore.